as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, siamo di nuovo qui al Pane Rose 103.1, la Città Fujiko, la trasmissione dei lavoratori metalmeccanici e non solo. Oggi parleremo di carcere. Noi parliamo dei lavoratori e oggi parliamo di carcere. La Città Fujiko spesso si occupa di carcere. C'è una trasmissione bellissima che vi invito tutti quanti ad ascoltare. Tutte le mattine si fa il report di quello che succede nel carcere, nella Dozza e non solo. Noi vogliamo dare il nostro contributo e abbiamo incontrato Gian Guido Naldi, che si occupa invece di un progetto bellissimo. Adesso primo un pezzo, perché ricordiamo a tutti che il carcere sarebbe meglio che non esistesse. Purtroppo in carcere ci si finisce, perché spesso si vive in delle condizioni che si è costretti a rubare, oppure si vive in un sistema che ti porta a fare dei crimini. Sicuramente però il carcere, visto che esiste, deve essere un posto in cui le persone devono uscire migliori, e spesso purtroppo questo non accade. In questo caso parleremo di un bel progetto, parleremo di lavoratori del carcere che stanno alla Dozza a Bologna, dei metalmeccanici. Ecco, vi lascio una canzone bellissima che spero che faccia riflettere tutti, e poi ascolteremo l'intervista che ho fatto a Naldi, il mio ex segretario della FIOM, che adesso si occupa di questi nostri compagni all'interno delle carceri. Poi a dopo. Casino, lascia che l'imperatore ti parli da vicino. Per dirigere tienala a menta, chi è un buono e chi un malamenta. Arabici rovelli lui che tiene la menta, chi è un buono e chi un malamenta. Linda chi su crimi caccio criminale, no, non voglio fare un tribunale universale. Che stesso lamento un'opinione personale, solo un giudizio individuale. Allora guarda i fatti in maniera razionale, senza sta sentita propaganda elettorale. Te voglio ricera, tienala a me, tienala a menta, chi è un buono e chi è un malamenta. Te voglio ricera, tienala a me, tienala a menta, chi è un buono e chi è un malamenta. Girinda sacca e non manca mille lire. I sono nato e sono cresciuto in un quartiere. Arro a roba, o spaccio, o te fai una vera. Senza una lira non sa televisione. Caterisce, non si ombra, si non tiene un macchinone. A scuola l'ha già fatto mezza navia, mezza maiola e mezza polizia. E allora che volete, si venga cocaina, si voglia magna purina, sera e mattina. Si voglia sta pulire come i figli del signore. Che renare rinda sacca e che vestito buono. E allora quando legge in coppia il giornale, chi guardia ne ci sa di quattro criminale. Pensaci buon, tieni la menta, chi è un buon e chi è un malamenta. Non un pazzo e supporta. Wow, yeah, yeah, yeah. Chi non riesce a capire, non sta un buon momento. Non mi parla frase che ho immoralità. Non mi parlate di onestà e criminalità. Io sono cresciuto senza manca l'opportunità. Quello che faccio, faccio solo per mangiare. In da chi sono uno ci sta che roba legalmente sfrutta tutti i giorni la miseria e la gente. E allora perché per tutta questa gente? Loro sono buone, io sono malamente. Allora, siamo qui sempre a Cervia, al congresso della CGIL. Abbiamo avuto la fortuna di intervistare Gianguido Naldi, che è lui dello SPI, ma oggi non è che gli chiede da poco, dello SPI, da due mesi dello SPI. Noi gli chiederemo chiaramente il suo impegno dello SPI, perché noi siamo interessati a capire il progetto che sta facendo in carcere la Dozza. A Pagliane Rose noi parliamo di lavoratori. Non abbiamo mai parlato di quei lavoratori che oggi sono in carcere ma stanno lavorando e sono dei metalmeccanici, poi tra parentesi, a cui si apre il contatto metalmeccanici. Dunque noi siamo metalmeccanici del Pane delle Rose e vogliamo da te che ci racconti un po', tu ex metalmeccanico, di questo progetto, come è nato e come si sta sviluppando. Dunque, è nato da un'idea anche di un professore universitario, Minguzzi, che io ho conosciuto 13 anni fa quando ero consigliere comunale. In quel momento ero tornato, avevo smesso di fare il segretario della FIOM, ero tornato in azienda e mi avevano affidato dei compiti di responsabilità sociale. Quindi ho proposto quella cosa alla GD e abbiamo cominciato a lavorarci su, poi abbiamo aggregato l'IM, di cui Minguzzi era nel consiglio di amministrazione, e la Marchesini, e da più di 10 anni c'è questa azienda che opera dentro al carcere. Facciamo dei premontaggi di gruppi, quindi un lavoro anche abbastanza complicato, un lavoro che una volta che l'hai imparato ti consente anche di trovare da lavorare. E poi gli diamo una mano anche noi a trovare da lavorare nelle aziende dell'indotto di queste tre grandi aziende del packaging. Questo lavoro non sarebbe stato possibile o non sarebbe possibile farlo in maniera così, diciamo, anche fatta bene e apprendere anche in maniera così veloce senza il supporto dei tutor, che sono operai specializzati in pensione, che ho trovato quasi tutti io grazie al fatto, insomma, che quel mondo lì lo conoscevo, che come volontari una volta, due volte alla settimana vanno in azienda a supportare dal punto di vista tecnico il lavoro che viene fatto e i ragazzi che lo fanno. Dopodiché la figura del tutor è diventata molto di più, abbiamo scoperto che molto di più della figura che ti dà un apporto professionale, perché è anche un rapporto, uno scontro, incontro, confronto fra culture diverse, fra la cultura di chi ha conquistato la propria dignità attraverso il lavoro, anche il lavoro ben fatto, ma il lavoro con una propria identità di lavoratore. E invece magari chi nella vita ha preso anche da molto giovane delle scorciatoie per, pensando, illudendosi di stare bene, di diventare ricco senza fare grandi fatiche. Quindi è stato un rapporto padre-figlio, un rapporto fra culture molto diverse, e questa è la cosa, penso, più interessante. Dopodiché sono 10 anni, appunto, abbiamo fatto 10 anni a giugno, 10 anni che lavoriamo, sono passati da noi 53-54 persone adesso, ad oggi, di queste una quarantina sono già uscite. 3 o 4 di questi sono usciti, hanno preferito abbandonare il nostro percorso professionalizzante, diciamo così, per andare in comunità terapeutica, in quanto ex tossici. Questi sono tornati tutti in galera. Certo. Dei restanti 35 più o meno, una quindicina lavora in aziende metalmeccaniche, e comunque di questi restanti l'indice di reiterazione che abbiamo noi è bassissimo, è attorno al 10%. E quindi questo dimostra che se gli dai un'opportunità, diciamo, ma anche l'opportunità che va anche al di là del fatto che poi gli troviamo anche da lavorare, ma se gli dai un'opportunità di ripensare, ricostruire, fargli comprendere che sia pure con molta fatica, però poi costruiti una vita basata su altre cose, su altri valori e anche su altre realtà concrete, questo insomma funziona abbastanza. Poi abbiamo subito le nostre delusioni, perché non tutto è andato, quelli che sembravano totalmente convinti, qualcuno anche aveva la faccia dell'agnellino, non era un agnellino, e quando è uscito di lì insomma ci ha creato qualche problema, però tendenzialmente invece siamo molto orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare, perché in effetti dimostra che si può effettivamente dare la possibilità a qualcuno di non riprendere una strada di delinquenza. Alla fine è un servizio che facciamo alla società, perché se uno quando esce, se uno quando esce non riprende la vita di prima, questo è nell'interesse, non solo nell'interesse suo, ma nell'interesse di tutti. Allora, io ho avuto modo di conoscere alcuni dei ragazzi, un'iniziativa che si è svolta proprio dopo 10 anni, no? Della, sì. C'ero anch'io, li ho intervistati, e devo dire che le cose che tu stai dicendo sono tutte, hanno detto anche i ragazzi, no? Nel senso che la stragrande maggioranza l'ha fatto in maniera seria, ha trovato un posto di lavoro. Ma la cosa che mi ha stupito, che a differenza del progetto vostro, ha anche un valore aggiunto per quanto riguarda la questione della contrattazione. Perché tu sei un ex sindacalista, sei stato il mio segretario. In quel caso là ci parli un po' di quello che è successo, perché loro lavorano e prendono anche dei soldi, dello stipendio. Noi abbiamo fatto l'accordo, la cosa strana è che l'ho fatto io in quanto rappresentante dell'azienda, diciamo. L'ho fatto allora col sindacato dei metalmeccanici per applicargli il contratto nazionale, cosa che non era indispensabile fare l'accordo col sindacato, però dopo poi vedemmo alcune eccezioni, alcune cose, ma di tipo banale. Applicargli il contratto nazionale vuol dire una cosa giusta, e anche però, bisogna che ce lo diciamo, è anche una cosa che crea una condizione di privilegio per loro all'interno del carcere, perché guadagnando per effetto anche della decontribuzione di cui abbiamo diritto noi ma anche loro, prendere 1.100-1.200 euro al mese in carcere, quando gli altri, quelli che fanno il lavoro domestico, altri lavori, prendono 200-300-400 al massimo euro al mese, quindi loro sono... quindi questa è la cosa. D'altra parte però succede che quando finiscono da noi e vanno fuori, da noi prendono quei soldi lì lavorando 30 ore alla settimana, perché fanno un part time di 30 ore. Quando vanno fuori ne guadagnano 100 euro in più facendo 40 ore alla settimana, dovendo pagare i trasporti, l'affitto e così via. Dopo all'inizio pagano uno scotto molto grosso. Difatti noi cerchiamo di dirgli: finché siete lì con noi mettete da parte un po' di soldi per quando uscirete. Cioè, la cosa incredibile è che quasi quasi hanno più diritti come lavoratori in carcere che in alcune aziende, perché poi è chiaro che se finiscono nelle aziende che tu hai parlato, non è, le condizioni sono migliori. Beh, noi non siamo lì per fare delle angherie, siamo lì per insegnare alle persone un lavoro, lavorando, insegnargli un lavoro lavorando, non facendo semplicemente dei corsi. I corsi li facciamo, li prepariamo prima di assumerli, ne facciamo anche adesso, ne parte un altro di corsi a giorni per quelli che sono occupati, quindi gli diamo anche degli strumenti formativi, però sostanzialmente l'esperienza si basa sul fatto che tu lavorando cresci professionalmente, e quello è uno di quei lavori che, come si diceva una volta, ma c'è ancora, non è un lavoro operaio che non finisce mai di imparare. Stai parlando del packaging, perché tu mi stai parlando di un'azienda che lavora per l'eccellenza, a Bologna. Fanno dei gruppi, dei sottogruppi, alcuni anche parecchio complessi. Ultimamente abbiamo cominciato a fare anche, lo chiamano rebuilding o retrofitting, cioè comunque prendono delle macchine vecchie, le smontano tutte e poi le rimontano, diciamo così, con i pezzi che servono, cambiando i pezzi che serve cambiare, e quindi anche quello è un lavoro. Gian Guido, ma estendere questa cosa qua anche all'interno della Dozza, perché alla fine coinvolge non tantissimi lavoratori, la Dozza è sovrappopolata, si può pensare di far questo? Allora, noi fino ad ora, no, in questo caso non parlo per me, parlo proprio anche per conto degli imprenditori che hanno dato vita a questa azienda, che consentono che viva, perché è un'azienda che tutti gli anni ha bisogno di un po' di contributo per ripianare le cose. Diciamo che loro si aspettavano che l'effetto imitativo fosse un po' più consistente. Però ci sto lavorando, ci sono alcune idee nuove, adesso quando riusciamo a quagliare qualcosa ne parleremo. Allora, noi ci crediamo in questo progetto perché funziona, laddove il lavoro in cui si rispettano i diritti, in cui le persone imparano e si riescono anche a emanciparsi dalla situazione di disagio, di criminalità, noi siamo sempre favorevoli e spero che si possa estendere, perché ci sono delle grandi carceri in Italia che ne hanno tanto bisogno. Ma in giro ci sono molte esperienze, più nel settore alimentare, pasticceria, forni, cose del genere, cose interessanti che sono cresciute. Sì, ma a livello contrattuale, sono legati ai contratti? Dipende anche se sono, alla fine, diciamo, il sistema che era più diffuso erano le cooperative. Le cooperative alla fine distribuiscono quello che guadagnano. E quindi c'è una considerazione da fare, che fare produttività, ora io ti puoi figurare tutta la vita da metalmeccanico, da sindacalista, non è che per me la produttività è il mio mantra, però insomma è una cosa che perlomeno ne ho discusso tanto con le imprese, è un tema che conosco. Fare produttività all'interno di un carcere non è semplice, perché hai mille contrattempi, cioè noi dobbiamo cominciare alle 9 in un quarto a lavorare, uno arriva giù alle 9:20, un altro, altri tre arrivano giù alle 9:15, altri quattro arrivano giù alle 9, perché li mandano giù alle 9, certo. Poi dopo quello viene chiamato perché arrivano i parenti, quell'altro. E poi dopo ci sono dei momenti in cui gli capita che un compagno gli ha fatto un'angheria, sono incazzati come delle bestie, quindi è un ambiente dove, no, poi per non parlarti, noi ci abbiamo messo 6 anni per mettere intranet, non so se mi spiego, 6 anni per mettere intranet, non internet, intranet, quindi che è uno strumento. Oggi tutte le imprese lavorano attraverso il mondo digitale, no? Non è che ti mandano ancora i disegni come quando lavoravi in azienda. Quindi lavorare senza intranet, adesso finalmente l'abbiamo. Ci sono un sacco di difficoltà, però si superano con pazienza, e con buona volontà si supera. Ok, ti ringraziamo Gian Guido, buona fortuna a te e ai ragazzi. Mi ha fatto piacere, grazie a voi, ciao. Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more of his fire on the floor. It don't what you say, you can't survive it, there ain't no way. So tonight I'm gonna stay and play with his fire on the floor. Wanna play with his fire. Oh. This kind of love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned. And your soul will beg to burn. Before, there's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for his flame. Got me running for the door. Avete ascoltato Beth Hart, cantante che io adoro. Avete ascoltato prima di lei Gian Guido Naldi, che ci ha raccontato dell'esperienza dei metalmeccanici a Radozza, di questi lavoratori, i nostri colleghi di lavoro, che producono pezzi per il packaging di Bologna. Avete sentito la situazione incredibile, dovrebbe far riflettere tutti. Cioè, loro, lì si applica il contratto nazionale. Pensate che ci sono aziende in Italia dove questo non accade. Ci sono aziende in cui applicano i contratti pirata oppure non danno i soldi che gli spettano. Infatti alcuni lavoratori si trovano in condizioni assurde quando capitano con degli artigiani dopo che hanno lavorato, insomma, per il packaging all'interno del carcere, si trovano a guadagnare quasi la stessa paga e in più tutte le spese. È veramente incredibile. Però questa esperienza per noi è fondamentale, ci fa capire che la contrattazione è una cosa che bisogna cercare di ottenerla sempre. Se sono riusciti in carcere, bisogna che tutti i lavoratori si mettano in testa di lottare per i propri contratti. Ora io vi lascio, ci sentiamo alla prossima puntata. Io penso che sia stata la puntata davvero troppo bella questa qui, è piena di speranza. Ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti. Orgoglioso de estar. Orgoglioso de estar. Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.